tutti i turisti giapponesi che troviamo qua a Napoli in questo periodo e che vengono tantissimi turisti quest'estate, speriamo, perché siamo a Napoli, una delle città più belle del tutto Europa, del tutto il mondo. Questo è Radio Tour The Moving Station, che noi trasmettiamo in tutta Europa anche se satellite. E io sono Fergal Kavanagh, passiamo queste due ore insieme, dalle 18 alle 20, e poi dopo c'è qualcosa che succede. Che succede? Non lo so, noi andiamo avanti con la musica. Stoppare, perché è così bello, stiamo divertendo qua per te, dobbiamo essere optimistic proprio, perché tra poche ore parte l'Italia contro la Francia, il grande finale che viene trasmesso da Rotterdam, speriamo bene. Comunque l'ottimismo non fa male a nessuno, se voi siete ottimistiche o pessimisti anche potete scriverci, comunicarci il vostro pensiero, il nostro GSM box qua è 0348 24 38 888, a me fa solo piacere sentirvi adesso. Comunque stasera, ragazzi, mi raccomando, azzurri, fate bene. Allora il punto è che sarà, sarà, perciò vogliamo farvi sentire Sarà di Neri per Caso. Ma Super DJ, e noi le dedichiamo a tutti quanti che vogliono diventare DJ. Eccomi qua, questo è, sono Fergal Kavanagh, il 2 luglio siamo in estate 2000, il nuovo palinsesto di Radio Tour The Moving Station, perciò abbiamo un specialità, una cosa very special for you. Abbiamo deciso, siccome questa è la radio vostra, che facciamo il Just For You non soltanto uno, ma due volte al giorno. Al giorno? Ma che sto dicendo? Allora, e perciò se volete sentire un brano scelto da voi, noi lo facciamo per voi, basta chiamarci, il numero come sapete è 081 790 1411, o il GSM box che vi ho già dato il numero, questo è Max Casey. Boh, che vediamo a Neapolis la settimana prossima. Oh ragazzi, quanto caldo fa oggi, io sono stato bloccato un po' in traffico, ma che traffico dite voi, però proprio con l'aria condizionata sono stato bene con la mia bella Fiat che ho comprato alla Fiore, sto bene, insomma tuffatevi anche voi nell'estate in Fiore, fino al 31 luglio do Fiat Fiore 600 in 11.800.000 lire, punto do 15.900.000 lire, brava e bravo do 21.400.000 lire, in più 6 mesi di assicurazione furto e incendio totale, e per finire finanziamento fino a 60 mesi dell'intorno valore dell'auto. Radio Tour ti invito a provare 600 punto brava o bravo presso le concessionario Fiat Fiore a Napoli in viale Kennedy 5860, in via Volpicello 43, in via Scarfoglio 7 o ad Erchelano in via Cozzolino 132. Concessionario Fiore, il fiore fiore della vita, della Fiat. Ok, allora adesso Just For You, abbiamo avuto un bel messaggio da Pietro che si è collegato al nostro website www.radiotour.it, grazie Pietro, questo per te e flacconi di divertimento da miele. Quando sei come stare sulle spiagge con queste gonna di straw skirts a ballare con Gloria Estefan. Ma insomma, io che sono irlandese, che guai proprio che tocca a me. Io sono venuto in Italia ad imparare l'italiano, ma vedo qua niente tranne lo spagnolo. Non mi dejes di querer, devo imparare in altre lingue per campare qua, non lo so. Comunque siamo arrivati ad un altro momento di Just For You, basta che ci chiamate, vi prego ragazzi, chiedete un brano, magari in inglese o anche in irlandese, vai. Il numero, vi ricordo, è 081 790 1411, o il GSM Box 0348 24 38 888. Chiamateci subito perché vogliamo accontentarvi, questa è la musica per voi, l'estate è vostra. Ok, che abbiamo adesso? Aha, un altro spagnolo, Santana con Corazon Espinado. Moving Station, la meglio della musica dell'estate, la musica per sempre, è Radio Tour per sempre. Io sono Fergal Kavanagh e adesso siamo arrivati ad un momento molto speciale. Radio Tour regalo a Raffaella 2000, un gadget firmato Pendium. Trend superato, Pendium è la moda che ti mette in movimento. E per Raffi 2000 questi sono i Subsonica e Disco Labirinto. Get loud, perché vogliamo tifare il più forte possibile per i grandi azzurri che giocano stasera. Non giocano in azzurro, infatti, giocano in bianco. Vabbè, questa è contraddizione. Comunque, è una notizia che arriva dall'Inghilterra. Se voi dovete fare un colloquio, soprattutto a pranzo, fate molto attenzione a quello che mangiate, perché un sondaggio ultimamente ha rilevato che la vostra possibilità di essere assunto è aumentato se scegliete di mangiare un'insalata di pollo invece di un burger and chips. 59 99% di uomini hanno detto vabbè, darei il lavoro sì a quello che mangia il burger and chips, però 74% ha detto sicuramente il chicken salad andrebbe meglio, perché il chicken salad fa capire che tu sei serio con quello che credi del tuo corpo, così la vita anche, mentre il junk food, cioè il fast food, ti fa sentire un po' più divertente, magari un po' meno serio, che è bello, però per il lavoro decisamente no. Andiamo avanti, Desiree. Tonino Caretone, abbiamo che lingue? Mica sarebbe spagnolo questo. Yes, qua in Italia adesso siamo stati dominati dai spagnoli, però stasera dominiamo noi ai francesi, si spera almeno. Hanno annunciato la formazione, vedo che Toldo, chiaramente adesso che Buffon non c'è, sarà in gol e questo non dispiace, è stato bravissimo contro l'Olanda, speriamo bene pure stasera, senz'altro, non ci sono dubbi. E scende anche Totti, vedo, chissà come giocherà Zoff questa sera. Vabbè, non gioca Zoff, gestisce Zoff. Comunque il countdown è iniziato, manca un'ora, poco più di un'ora alla partita stasera. Sicuramente la vittoria sarà vostra, nostra, tutti in Italia. Andiamo avanti con un gruppo australiano che sono fan dell'Italia, lo spero almeno perché hanno suonato con Pavarotti, i Savage Garden con A Formation. Vai su Radio 2, The Moving Station. I believe, io credo, questa è la canzone di Savage Garden, che si chiama Affirmation, che ci porta appunto ora. Che ore sono di preciso? Vediamo. Ladies and gentlemen, the clock. Le 19:01. Ci importa, certo che ci importa che l'Italia fanno 3 bel gol stasera contro il 0 gol della Francia. Chissà, ma volete dirci quanto, cioè volete mandarmi un messaggio con la vostra previsione della score? Chissà, non lo so. Petit non gioca per la Francia, c'ha la febbre. Ottimo questo è buono. Leggo un paio di messaggi, vi ricordo il numero 0348243888 è il numero del GSM Box dove ci puoi contattare. Anna ci ha contattato lì e infatti Anna sta andando in vacanza, però grazie Anna, ha detto continuerà ad ascoltarci. E sicuramente ti diverterai con la bella musica di Radio Tour The Moving Station con te per tutta l'estate. State, yes, the summer is here. Piero anche ci ha chiesto il numero di email, anzi l'indirizzo di email. Io sono a fergo@radiotour.it. Basta scrivermi e provvedo di rispondervi. Allora, adesso Shaggy ci fa ballare e urlare per la vittoria stasera, chiaramente. Dance and shout. Take your time vuol dire prenderlo con calma. E certo non c'è problema adesso a prenderlo con calma, perché domenica pomeriggio, anzi quasi domenica sera, noi la prendiamo tranquillamente. C'è qualcosa che ci eccita un po' tra poco, però per il momento rilassiamoci un altro po'. Take your time, però non fate proprio perché volete adesso sentire un bel brano, perché siamo arrivati al Just For You. Se voi la prendete con calma, non sarete il primo a richiedere un brano per voi. Quindi alzate il telefono, chiamateci subito al 0817 190 14 11 o al GSM Box 0348 24 38 88 per caricare canzone per voi. Intentiamo un ascoltatore che ci ha chiamato per Just For You. Ed il drago vuole sentire Paolo Jarabe di Vallo e Dipende. Perché l'estate è iniziata, siamo al 2 luglio, 2 luglio come dite voi in italiano, 2 July non si dice in inglese, si dice the 2nd of July, vabbè questa è un'altra cosa strana delle lingue. Eagle Eye Cherry, voglio chiedere a suo padre, ma come le chiamavi a tuo figlio? Li chiamavi, wait, Eagle, l'aquila, vieni qua, vabbè, chi ne sa. Allora siamo quasi arrivati in un altro momento, Just For You, voi dovete scegliere che brano volete sentire, basta chiamarci al 081 790 1411 o mandare un messaggio al GSM Box 0348 24 38 888. Di più, yes, un'altra canzone in spagnolo, sto imparando e sto aquí ad imparare lo spagnolo, va bene, La Mosca. Allora siamo arrivati al bel momento per il Just For You. Request e Radio Tour regalo ad Anna un gadget firmato Pendium, trend superato, Pendium è la moda che ti mette in movimento. E per Anna facciamo sentire Mariah Carey e Heartbreaker. The Moving Station, just Miracle, dicono c'ho bisogno di un miracolo. Vabbè, il miracolo hanno già avuto l'Italia a passare in finale. Non voglio dire niente di male, però sono stati bravissimi a difendere l'altro giorno nel semifinale. E speriamo che stasera fanno sia questo che un bel attacco. Allora, prendete carte e penne, non mi scrivete lettere a dire che oh, che dici, che c'è la possibilità che l'Italia sono fortunato, non bravissimi. Voglio dire, prendi carte e penne, perché voglio che segnalate questo appuntamento che vi do adesso. Radio Tour from Moving Station, la radio dei grandi eventi. La seconda tappa del Gran Gala di Piano Bar, venerdì 7 luglio a bordo del motonave Adriatic Princess. Prenota le tue mini crociere nel Golfo di Napoli, 0347 63 63 205. Radio Tour c'è. Il tour estivo di Gigi Proietti col suo nuovo spettacolo A me gli occhi, mercoledì 19 luglio a Molo Angino dal Porto di Napoli. Info 081 761 12 21. Radio Tour c'è. Radio Tour, Radio Tour, la radio dei grandi eventi. Il brano l'abbiamo scelto apposta per voi perché Ronan Keating è irlandese. E perché allora l'Irlanda? Che c'entra con la partita che sta proprio per iniziare in questi momenti? Praticamente non lo so se vi ricordate l'ultima volta che l'Italia ha perso proprio, non parlando di rigore, però ha proprio perso a gol, diciamo, durante una partita in un tournamento del genere come i mondiali o gli europei. E infatti è stato nel 94 contro l'Irlanda negli Stati Uniti, e questo lo dico con molto orgoglio. Allora, voglio dire, forse azzurri, o devo dire in questo caso bianco, che stanno giocando in bianco. E prima di partire, prima di lasciarvi e chiudere, voglio salutare a tutti quanti che hanno scritto al GSM Box. Allora, Antonio, grazie del messaggio. Do Lou, che è appena tornata dalla Francia, è tristissima. Lisa, che vuole salutare a Manu, a Vergi, a Libi, ad Antonio, a Carmine e al suo amore Vito, a tutti e Colli Amenei che stanno insieme a vedere la partita, e a Manuska. E con questo chiudo, vi auguro una buona partita. Forza, devo dire, azzurri o bianco. Anche vabbè, forse Italia, arrivederci alla prossima. Io tornerò grazie a Fiore e alla regia, e grazie a voi che mi avete ascoltato. Sono Fergal Kavanagh, torno il sabato prossimo alle 15 con il Top 40. Buona settimana.